Bordo Campo di Dario Ricci. Sarebbe una beffa per il Verona, ma ora c'è Elker che supera Pioli. Elker in area. Rete! Ale, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Il Verona, amici sportivi veronesi, è la miglior squadra d'Italia. Preben, Elker, Larsen. Con Davide Bovo, consigliere d'amministrazione del nuovo Verona. Beh, si parla di Verona, dottor Bovo, allora, stagione 1984-85, Osvaldo Bagnoli in panchina, in campo campioni come Elker, Brigel, Di Gennaro, Galderisi, arriva lo scudetto. Vengono un po' di brividi a chi mastica un po' di calcio, no? A ripensare a quell'avventura. Lei era un giovane tifoso del Verona, immagino. Sì, molto giovane, nato nel 69, per cui... ero abbastanza giovane, direi. Qui in sede abbiamo ancora adesso tutte le foto che ricordano quel magnifico momento, per cui siamo una società e una città che tendenzialmente sono costrette a vivere un po' di ricordi, purtroppo. È vero, perché quella stagione non si è più ripetuta, la grande favola di quello splendido Verona. Oggi in che acque navigate? Una serie di vicissitudini di vario tipo ci vede in questo momento circa metà classifica della Lega Pro, prima divisione, insomma. E insomma, c'è da lottare per tornare ai fasti di un tempo, tra l'altro con un nuovo proprietario, no? Il presidente Giovanni Martinelli, 58 anni, che ha voluto imprimere una svolta importante, perché Verona nel calcio non è solamente famosa per quello scudetto e per la passione del suo tifo più sano, ma purtroppo anche famigerata per una curva tra le più indisciplinate, usando un eufemismo, no, dottor Bovo? Mi sembra che il nuovo Verona invece abbia intenzione di tracciare una nuova linea nel rapporto con la propria tifoseria. La nostra curva, la nostra tifoseria e indirettamente anche la nostra città passa agli onori o ai disonori della cronaca per atteggiamenti che lei ricordava. In realtà spesso e volentieri si sente parlare della minoranza rumorosa piuttosto che della maggioranza festosa. Noi domenica abbiamo avuto 16.500 persone a vedere una partita di Serie C e la nostra media, diciamo, partita di 12.000, mi preme sottolineare che vengono sempre ricordati gli atteggiamenti di poche unità e quello che invece fanno le altre migliaia di persone non viene sufficientemente pubblicizzato, insomma. A parlare però sono i numeri che descrivono un mondo ultra veronese legato all'estrema destra e spesso protagonista di episodi di violenza e razzismo. Sentiamo questa scheda. 52.750 gli euro di ammenda all'Hellas Verona. In un campionato e mezzo tra C1 e Prima Divisione, il Verona è stato multato 18 volte per intemperanze, spesso a sfondo razzista, dei suoi tifosi. 13 la stagione scorsa, 2 nel play-out, per 31.850 euro e 5 in questa, per 20.900 euro. In totale, quindi, ammende per 52.750 euro. Beh, numeri pesanti, dottor Bovo, e non a caso lei è consigliere dell'Hellas Verona con delega alla campagna antidiscriminazione del club scaligero. Di cosa si tratta? Abbiamo pensato A, di creare un qualcosa che rispecchiasse la personalità del nostro presidente. B, pensavamo anche all'aspetto, oltre che umano, anche economico-finanziario, perché lei mi capisce che al di là delle multe che possono arrivare di domenica in domenica, le conseguenze finanziarie per chi si approccia a questo tipo di mercati in realtà sono molto più rilevanti, perché una partita a porte chiuse, visti i tifosi, il numero di tifosi che dicevo prima, costa ben di più della multa. E poi di fatto è inutile nascondere, per chi pensa in grande, noi vorremmo effettivamente tornare ai fasti di un tempo lì vicino, scoraggia o allontana anche sponsor di un certo tipo. Il ragionamento di fondo è che avere una tifoseria violenta o famigerata appunto per atteggiamenti di violenza nei confronti degli altri tifosi oppure di atteggiamenti a sfondo di razzista, insomma, oltre ad essere un danno d'immagine, ha come conseguenza anche quello di allontanare potenziali investitori nella società. Assolutamente sì, sulla violenza però sottolineo anche che io onestamente episodi di violenza rilevanti negli ultimi anni provocati dalla tifoseria del Verona non ne ricordo, dico particolarmente significativi, ne ricordo di altri in altre città che però, come dicevo, mi pare che non vengano altrettanto amplificati, ma va bene così. Nonostante questo, noi ci siamo più ampiamente rivolti alla nostra tifoseria chiedendo un tifo sportivo, che vuol dire riconoscere che c'è anche un avversario che può giocare una partita meglio di noi e magari porre minore attenzione all'errore arbitrale o altro tipo di situazioni, stemperare il clima, venire allo stadio per divertirsi con famiglie e ragazzini, cosa che in questa città avviene già per un'altra squadra. Quindi non ci chiediamo perché non sia possibile anche per noi. Ecco, infatti mi scusi, ma glielo chiedo anch'io, perché sì. Verona è la città anche del Chievo, no? Che è sì. diventata un po' la favola del calcio italiano e ha sì. conquistato un tifo trasversale per la sua simpatia. Ecco, sì. perché invece il tifo dell'Hellas ha questa connotazione anche sui mass media, ma in generale, mentre invece nella tifoseria del Chievo non hanno attecchito certi atteggiamenti estremistici? Credo che semplicemente la maggior storia di questo Hellas Verona, che comunque è appunto la squadra che ha vinto lo scudetto, che per svariate generazioni ha rappresentato il punto di riferimento calcistico, che non so, se non ricordo male, il primo anno in cui il Verona andò in Serie A, la squadra a cui lei faceva riferimento, che è il Chievo, mi pare fosse stata in seconda categoria. Con questo, con tutto il rispetto per il Chievo, che ha dimostrato di essere una società solida, capace, competente e in grado di attirare tifosi sportivi, cosa che peraltro, ripeto, abbiamo anche noi, credo che semplicemente il motivo sia quello. Affrontando la Juventus o Milan o squadre così importanti in provincia, una, due, n volte, chiaro che magari poi il tifo si esaspera un pochettino. Penso di poter dire che i simpatici amici del Chievo non possano annoverare così tante partite a un certo livello. In concreto, come state lavorando per cambiare questa tifoseria, per educare questa tifoseria? So che ci sono sul tavolo, ma anche già avviate, molte iniziative. In primo luogo, dopo due minuti che il nostro presidente aveva acquistato il Verona, tra le varie cose di commento si è fatto subito riferimento a sospendere qualsiasi tipo di iniziativa che possa discriminare chi che sia. Alla prima partita abbiamo presentato quello che di più cristallino e puro abbiamo in casa, che è il nostro settore giovanile, ha sfilato per tutto lo stadio presentandosi e richiamando appunto al fatto che in uno stadio non ci sono solo i giovanotti pronti magari a sventolare striscioni inopportuni o a menare le mani, ma insomma. Ci sono anche bambini, appunto, anziani, famiglie, donne e quant'altro. E poi abbiamo aderito all'associazione Fare, che se qualcuno vuole anche vedere dove è, farenet.org dice tutto, che è un'organizzazione internazionale che col patrocinio della UEFA cerca di, attraverso l'evento sportivo del calcio, sensibilizzare l'opinione pubblica e di conseguenza i tifosi al problema e al tema del razzismo piuttosto che omofobia, piuttosto che altri tipi di messaggi. Quali sono state le reazioni della tifoseria? E per tifoseria intendo la maggioranza buona, diciamo così, e soprattutto anche la minoranza che invece buona non è. Per quella che buona non è, io ho partecipato a svariate trasmissioni e radiofoniche e televisive ovviamente locali e ho ricevuto centinaia di messaggi o di telefonate di solidarietà assoluta su questo nostro approccio al futuro, insomma. Partendo così, svariati sponsor, potenziali sponsor importanti della città si sono già avvicinati chiedendo come poter contribuire concretamente le prossime stagioni al nostro progetto, per cui è bastato poco, insomma, voglio dire. Quindi ecco, la città sta rispondendo, ma le chiedo ancora, rispetto alla Verona di cui parlavamo prima, quella dello scudetto, no? Sì. Com'è cambiata la città da questo punto di vista? Avrei piacere di ospitarla qui in sede e farle vedere alcune foto del Bentegodi in quegli anni, cioè su 25-30 mila posti era veramente gremito. Per cui è evidente che se su 20.000, 10, 20, quelli che sono, fischiano in un certo modo, non si sentono perché rappresentano, non so, lo 0,5%. Chiaramente negli anni, retrocedendo dalla A alla B, svariati anni in B, dalla B alla C, è chiaro che chi continua poi a frequentare lo stadio è probabilmente il tifoso più, vorrei dire appassionato, in realtà magari più accanito, quindi è normale che tutta quella categoria media che occupava gli spalti in quegli anni via via gradatamente è sparita. Temo da tifoso anche dell'Hellas quali sono, che alcuni siano migrati, i moderati diciamo, verso la squadra di cui parlavamo prima, e quindi quello 0,5% degli anni 85-90 così oggi è diventato magari il 3% e si sentono di più. Le chiedo invece come state già lavorando per il futuro, a partire da quello che ci ha detto, come continuerà la strada di questo nuovo Verona nel cambiamento del rapporto profondo con la città e con la propria tifoseria. Quello che risparmiamo di multe o maggior ricavo da un comportamento virtuoso, si pensa alla modalità di restituirlo a chi ci sostiene tutte le domeniche in una qualche forma e modo da definire. Ogni domenica o comunque quando riusciremo vorremmo inserire all'interno del programma, oltre che la partita, qualche evento. Non so, pensavamo a brevissimo, faccio un esempio concreto, a dei giocolieri professionisti di freestyle con palleggi, per esempio, al fine di rendere il pre-partita più piacevole e più sereno, insomma. Adesso iniziamo tutto un programma di contatto diretto con la tifoseria attraverso le sue rappresentazioni nella forma di calci club, tanto per fare un esempio. E a tutti i livelli, perché comunque la città è grande ma è anche piccola, e quindi anche la chiacchierata al bar con chi ti ferma o chi ti chiede nei vari momenti della giornata può contribuire a far passare il messaggio. Nel concretizzare, nell'ideare il progetto, non è che vi è venuta anche la voglia, il desiderio di chiedere un suggerimento a quelli del Chievo, no? Ma perché no? Noi sicuramente se abbiamo qualcosa da imparare, non solo dal Chievo ma anche da altre fonti di informazione, lo faremo sicuramente. A bordo campo. Il Monte dei Paschi vince la Coppa Italia 2009, due occasioni, due match point per una grande Virtus Bologna, una grande La Fortezza, ma per la terza volta in maniera ancora più amara è sconfitta proprio sul filo di lana. Siena merita la vittoria, ma solo e unicamente perché non c'è il pareggio nel basket. Allora, con Marco Calamai, parliamo di basket allora oggi a bordo campo. È stato un grande spettacolo quello della Coppa Italia vinto da Siena. Coach, che gliene è sembrato di questa sfida? Sì, confermo un grande spettacolo, un livello di pallacanestro alto, Siena che non ha passeggiato per niente in nessuna partita, è stata impegnata prima da Cantù, poi da Treviso, poi della Virtus, fino allo stremo, fino all'ultimo tiro, mezzo canestro a differenza, tutto si è svolto per il meglio, certamente essere tifosi Virtus che organizzano l'evento, che per 3 anni di fila perdono in finale in un modo un po' rocambolesco, ecco, essere tifosi Virtus non è proprio il massimo della vita. Perché parliamo di basket con Marco Calamai? Fiorentino, 57 anni, Calamai è uno che il basket ad alto livello lo conosce, Serie A1, A2, a Ferrara, Pavia, Venezia, proprio a Firenze, sulla panchina della Fortitudo Bologna e poi ancora Livorno, Sponda Libertas. Tecnico di grande valore per il nostro basket, poi a metà anni 90 coach si è un po' disamorato del basket di vertice, ci spieghi perché? Sì, proprio del basket di vertice e di tutto quello che ci sta intorno, perché del basket non mi sono mai disinnamorato e della pallacanestro rimango un eterno innamorato, uno sport intelligente, fantasioso, razionale ma anche imprevedibile, logico e illogico, no? È una disciplina unica, però tutto quello che ci sta intorno, sì, ecco, mi pesava un po' non solo lo stress da partita, quanto il fatto che i giocatori piano piano, e poi si è visto la deriva dove siamo arrivati, cominciavano a dipendere più dai loro procuratori, dalle loro statistiche, che non dall'allenatore e dalla squadra. Ecco, gli allenatori perdevano un po' di prestigio, era meno facile riuscire a programmare insieme alla società e a imporsi in campo. Queste cose mi cominciavano a far stretto questo basket, diciamo, giocato a quei livelli, e ho pensato che si poteva fare altro. Proprio perché l'amore per la palla a spicchi sopravvive sopra ogni altra cosa, ecco lì che quel pallone che rimbalza sul parquet è diventato uno strumento prezioso per un percorso educativo del tutto particolare, vero coach? So che lei da un po' di tempo siede sulla panchina di una squadra veramente particolare, ci racconti meglio? Sì, per arrivare alla panchina ho percorso 14 anni per arrivare a questa panchina speciale, nel senso che amando il basket ma cercando altro e cercando anche un percorso interiore mio di verità, ho incontrato così dei ragazzi con disabilità mentale dell'associazione La Lucciola, ho riconosciuto in loro quella luce che cercavo, nella loro autonomia e serenità. Ho riconosciuto un valore, ho voluto saperne di più e sono partito con un percorso di gioco insieme all'neuropsichiatra dottoressa Lamacchia, responsabile dell'associazione La Lucciola, che mi ha portato in 14 anni a scoprire tanti aspetti che non conoscevo, non solo e non tanto della disabilità quanto della pallacanestro, che questi ragazzi mi hanno restituito rivisitata, e io ho scoperto dei concetti che loro mi danno, tipo il saper aspettare uno e quindi l'attesa, il saper capire e capirsi tra di loro e quindi l'ascolto, l'attesa, le regole, l'integrazione vera. Abbiamo cominciato a lavorare con disabili e con normodotati insieme, ad andare un po' al di là di quello che si pensava, di quello che era scritto, a lanciare dei progetti di normodotati in squadra con i disabili. Sembrava veramente un insulto, dice, ma come, i disabili stanno con i disabili, altrimenti i poverini non ce la fanno, invece se li metti accanto ai normodotati li stimolano a dare il meglio e quindi fanno di più. Ed è vero, da 3 o 4 anni siamo arrivati anche ad avere una vera squadra con i giocatori più pronti, una squadra che si chiama Over Limits perché ci piace andare al di là, che ha un nome di una società gloriosa, centenaria, la Fortitudo che ci accompagna, uno sponsor importante come Milbanca, e giochiamo un campionato, il campionato ANSPI o degli oratori, gli altri sono tutti normodotati, noi siamo misti, spesso vinciamo, qualche volta come in questi giorni abbiamo anche perso, ma da 2 anni siamo vice campione d'Italia e quindi vuol dire che qualcosa i miei disabili e i miei normodotati insieme riescono a dare. Senta, ha scritto in un libro, Uno sguardo verso l'alto, in cui racconta questa esperienza. Ho scelto il basket perché è sempre stato il mio sport, ma anche perché è l'unica disciplina adattabile a questi ragazzi. Il gioco ha una sua violenza, però la fase finale, il tiro è morbida. E poi è l'unico sport che tende al cielo, e questa è una rivoluzione per chi è abituato a guardare sempre per terra. Alzano la testa ed è come se scoprissero un mondo nuovo. Beh, vivere questa epifania ogni giorno sul parquet non è cosa da tutti. Vale uno scudetto, coach? Sì, vale uno scudetto. Io ho fatto un po' di promozioni, una anche dalla Serie B alla Serie A. Ho vinto un titolo mondiale nel 90 con un'azione militare italiana in Belgio. Mi sono emozionato in quell'occasione, ma qui mi emoziono giorno per giorno. Davvero è un regalo giornaliero che questi ragazzi mi fanno. Io gli ho fatto alzare la testa, perché la pallacanestro è vero, punta in alto, punta al cielo, punta alla speranza. Loro mi hanno fatto guardare un po' dentro me stesso, e quindi con questo parallelo, loro verso l'alto, io verso di me, insomma, stiamo andando avanti. Dicevamo, coach di Coppa Italia di basket, so che anche voi siete stati protagonisti in campo. Sì, anche questa novità, le Final Eight qui a Bologna, quest'anno l'organizzazione, Sabatini, il patrono in testa con la Lega, ci hanno invitato. Abbiamo giocato il primo giorno, giovedì, 3 spezzoni da 10 minuti l'uno negli intervalli delle partite, il che significa che prima di Virtus Bologna contro Virtus Roma c'erano 7.000 persone. Abbiamo giocato contro l'Under 15 della Virtus, la Fortezza giovanile, rafforzato da 3 nomi importantissimi di un basket di qualche anno fa, Abbio, Lauro Bon e addirittura Augusto Minelli. E abbiamo retto, ci siamo divertiti, e poi un tocco finale splendido dell'organizzazione. Ci hanno fatto uscire prima che presentassero le squadre di Roma e di Bologna, e tutti i miei ragazzi sono entrati per mano a questi campioni, chiamato il campione per nome, Alessandro Tonolli, e con lui Leo Scandellari, e dall'altra parte Guilherme Giovannoni, e con lui Simone Fogli, e l'occhio di bue su di loro. Ecco, io credo che tutto questo si racchiude in un SMS che mi ha mandato una mamma il giorno successivo. Grazie Marco per aver regalato ai nostri ragazzi queste emozioni uniche. Ecco, loro le regalano a me e io cerco di dare a loro qualche emozione. So che cammin facendo avete anche recuperato un playmaker d'eccezione, no? Quel Gianmarco Pozzecco, per sì. Quei pochi che non lo sapessero, pluriscudettato nel campionato italiano, argento olimpico ad Atene 2004, che ha detto, giocando con la squadra di Calamai devo dire che ho giocato la partita più bella della vita. Ce la racconta qualche episodio del Pozzo con i suoi ragazzi in campo? Il Pozzo nel 94 sono stato il pazzo che l'ha fatto giocare a Livorno, perché lì lui ha veramente esordito in Serie A. Questo mi ha legato a lui, non è stato un rapporto facile, perché Pozzo è un giocatore molto elettrico, ma è molto generoso e pulito. L'amicizia è rimasta e lui mi ha promesso che prima di smettere avrebbe giocato un'ultima partita con me. Il giorno della Befana, il 6, ha giocato con la mia squadra contro i campioni d'Italia del Don Orione Castenaso. E lui, l'episodio è questo, che il primo tempo aveva mal di schiena, non riusciva a sbloccarsi e non riusciva a fare il suo gioco, non sapeva se passare la palla ai miei disabili, passarla soltanto ai miei normodotati, forzare lui, ed eravamo sotto i 12 punti. Io ho detto nell'intervallo, Pozzo, gioco, messo a giocare e fidati dei tuoi compagni. Lui è rientrato, ha fatto qualche canestro, quando sbagliava i suoi compagni disabili lo incoraggiavano, ha capito che doveva fidarsi, ha fatto due scariche a un ragazzo, a un uomo di 50 anni, Stefano Maranese, che ha messo due bombe da tre punti, abbiamo vinto la partita e lui alla fine ha detto è la partita che mi ha cambiato la vita e ho capito che per giocare e stare con ragazzi disabili basta fidarsi di loro e trattarli normalmente. Ecco, in questa frase c'è tutta la verità, secondo me, del rapporto tra cosiddetti noi normodotati e ragazzi in difficoltà, la normalità del rapporto e la fiducia che loro meritano. Immagino che il suo canestro sia pieno di episodi, di ricordi, di situazioni, e che ogni canestro, ogni due punti siano qualcosa che incidono, qualcosa di ben più importante che il referto della partita. Ecco, c'è un episodio particolare, un momento particolare in cui ha capito che questo progetto stava andando in porto, che veramente la palla a spicchi poteva con i suoi rimbalzi portarla ad un approdo imprevisto? Ce ne sono tanti. Scelgo un episodio che mi è successo il primo anno di lavoro, nel 95-96, con Sara, una bambina autistica di 10 anni, che non aveva mai parlato fino allora e che improvvisamente si è emozionata, toccata dalla palla, è entrata in contatto con me, improvvisamente si è messa a tirare, cosa che non aveva mai fatto nei mesi precedenti, e a fine allenamento mi ha detto ciao. Può sembrare normale, ma lei era la prima parola che ha detto in 10 anni della sua vita, da lì in poi ha parlato. Questo è un episodio che mi ha segnato profondamente, poteva succedere in un altro modo, è successo con la palla. E siccome la palla crea una relazione per l'autismo, entrare in contatto quando si riesce è importante, tante volte quando parlare è difficile, diciamo che una palla ti può aiutare, laddove ti è permesso sappiamo che in molti casi non si può fare. Questo mi ha segnato tutto questo percorso. E poi ci sono altri episodi più maturi, cioè successi più recentemente, prime finali italiane che abbiamo giocato contro la Calabria nel 2006, primo tempo avanti di 8, poi la squadra calabrese che faceva la Serie D si è messa a giocare forte sui miei tre normodotati lasciando liberi due disabili e mi ha dato 10-0. A quel punto, miracolosamente, i disabili cosiddetti in difficoltà hanno preso i palloni che gli sono arrivati perché erano liberi e hanno cominciato a segnare, hanno fatto 10 punti loro imprevisti e imprevedibili, hanno sbloccato la partita e abbiamo vinto in carrozza. Lì ho capito il loro valore e poi il tutto si è chiuso con un'intervista che un giornalista è venuto a fare di un giornale nazionale, non li conosceva e mi ha chiesto ma vorrei parlare con tre dei tuoi ragazzi, io ho dato tre ragazzi che stavano uscendo, che erano tre ragazzi in difficoltà, che però non hanno il cartellino della difficoltà, lui ha parlato con loro, poi ci vorrei parlare con altri tre e gli mando tre educatori che stavano uscendo, vedo come di loro si mette a urlare e praticamente lui aveva confuso disabili con normodotati, aveva fatto ai primi tre disabili la domanda ma che cosa vuol dire per voi normodotati giocare con i disabili e i cosiddetti disabili hanno risposto perfettamente, chiaramente ha chiesto poi ai tre ragazzi normodotati che cosa vuol dire per voi disabili giocare con normodotati e loro hanno cominciato a ridere e sono arrabbiati e lui era in crisi, invece gli ho detto guarda che qui invece hai il boom dell'anno, hai fatto un pezzo unico, hai confuso, vuol dire che c'è davvero uno scambio e intanto dietro la macchina i tre cosiddetti disabili se la vedevano della grossa, e questa è stata una chiave che mi ha fatto capire molto. Beh, coach, anche a noi, allora grazie e buon basket a lei e ai suoi ragazzi.